308. Bracioline alla Bartola. La carne di vitella o di manzo che meglio si presta per questo piatto sarebbe il filetto o il girello, ma può servire anche il culaccio e la coscia. Carne suddetta, peso netto senza osso, grammi 500. Prosciutto grasso e magro, grammi 50. Un piccolo spicchio d'aglio, un piccolo spicchio di cipolla, una costola di sedano lunga un palmo, un buon pezzo di carota, un pizzico di prezzemolo. Tagliate la carne a fette grosse, quasi un dito, per ottenere non più di 7 od 8 bracioline, alle quali procurate di dar bella forma, e battetele con la costola del coltello. Fate un battuto tritato molto fine, col prosciutto e gli ingredienti sopra descritti, poi versate in una sauté o in teglia di rame 6 cucchiaiate d'olio, sul quale a freddo collocherete le bracioline, spalmando sopra ad ognuna un pizzico del detto battuto. Conditele con poco sale, pepe e il solo fiore di 4-5 chiodi di garofano e a fuoco vivo fatele rosolare dalla parte di sotto, poi voltatele ad una col loro battuto per rosolare anche questo, e quando avrà soffritto a sufficienza, tornatele a rivoltare onde il battuto ritorni al di sopra, raccattando quello che è rimasto attaccato alla teglia. Ora bagnatele con sugo di pomodoro o conserva sciolta nell'acqua, cuopritele e fatele bollire adagio per quasi 2 ore. Ma mezz'ora prima di mandarle in tavola, cuocete nell'intinto delle medesime una grossa patata sbucciata e tagliata in 10 o 12 tocchetti, collocandoli nei vuoti fra una bracciolina e l'altra. Meglio sarebbe mandarle in tavola nel recipiente dove sono state cotte, ma se questo è indecente, mettetele pari pari in un vassoio con le patate all'intorno. Questa quantità basta per 4 o 5 persone, ma non è piatto da disprezzarsi, perché non lascia lo stomaco aggravato.